E buonasera! C'è buona la sera, sì! E perché non è buona? Lo fate a vento! Sta a caldo, cosa vuoi di più? Andiamo bene, andiamo! È più bello così, puoi andare! Certo. Cosa vuoi che fosse a caldo come te? Come se luglio? No, mi sugaggio, no, non andate! Già va bene così! Oh, allora, certo! Sì, fa bene, dai. Siamo tranquilli, dai. Però bisogna stare attenti ai confinari, dai. Sì, ci bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti a quelli lì. La questione comincia a preoccuparci in questo periodo, eh. Allora comincia le influenze e bisogna vaccinarsi, eh. Ah, sì, quello sì. Bisogna vaccinarsi, sì. Quest'anno me la faccio io, eh. Adesso quest'anno riprovo a vedere un po'. E di meno. Ma chi cazzo, boh. Anche se non la stavo facendo, me la mi beccava come fumo. Così che adesso vedo un po', quest'anno, appena che incominciano, me la faccio e ci la campano. Sicuramente a me... Sarà a metà novembre, come ho fatto l'anno scorso. Ti deve fare per il sicuro, eh. Questa non ritrovo, dico, anch'io, vediamo un po'. Speriamo che tutto bene, va. Bene. E allora, ieri non vieni in giro? Ieri non c'ero. Sono rientrato quasi che erano le 8:15. E il partigiano ieri, no? Cazza. Dove dire, ti ha pensato al partigiano? Sì, a pigliarmi lo brecco in chili, sono andato. Ma è un anno che non vado in chili. Io ho pensato a quello. Con questa pioggia che c'era ieri sera, cazza. Per cui, l'ho penso che li furi, Sì, ho fatto, sto portando sul cane e cominciando a piovigginare, alle mani. Ho cominciato a portare giù il cane che ho fatto, e poi ho cominciato a vedere l'eva. Ho detto, sempre il tempo, me. Ma mi si affaccia qualche oggi. Questi oggi non l'ho fatto, effettivamente e si è anticipata la fatta ieri notte. Perché ne ha fatto, Sembra che era tutta la notte, poco a poco l'ho sempre fatto. Fino a stamattina, fino alle 8 e qualcosa stava piovendo. Fino alle 8 e qualcosa, perché quando c'è giù a lui stava piovendo. Poi che è andato a pigliarmi il giornale, che è andato a pigliarmi la macchina. Otto e qualcosa era. Faccia come vuoi. Lui gli ha fatto una bella giornata. Anche la caldo lui, Si stava veramente bene. Io sono uscito a pranzo fuori. Mi hanno portato a pranzo fuori. E per cui sono rientrato alle 3:30. Si stava bene. Non c'era da prendere caldo, normale, va. Sì, ci stava bene fuori. Infatti voglio avverte la maglietta, no. Non di più. Io avevo una maglietta a maniche corte, però c'avevo la ceppa, c'avevo. E per cui proprio senza la ceppa non vedo. Ancora sempre così, ma è freschetto, capito? Abbracci lui ancora, c'è troppo freddo adesso. No, adesso con una felpa sopra già va benissimo. Ma ci sta bene. Sì, non è fatto restare, tranquillo. Ma anche adesso mi ce l'ho a te. Anche in casa me la metto. Perché sembra così, ma sono colpiciato a manisce corte. Allora c'è freschetto, allora mi sto messo la seppa così. E ci sta bene, va, sono tranquillo. E cosa vuoi fare? Via, perfetta. Fa freddo, vogliamo caldo, fa caldo, vogliamo freddo. Non siamo mai contenti, no. No, non ci sta bene. Mi sta mai a tentare bene, a Puglia ci sta bene. E domani cosa ha messo? Bello? Sì, domani ha messo bello lo stesso. Penso io fino a mercoledì, penso che sia buono. Va bene allora. A me perché mi dà un po' di sole. Ah, mi sono messo stamattina, ero qui facciata di sala, con la chiapparella sollevata, cazzo, il cuore di sole bruciava, il sole bruciava al passo di te. Sì, no, ci sta, va bene, a Puglia, stata rusoia, già era gatto, sto mangiando. Cazzo, in ottobre, cazzo. Ah, l'anno scorso, in ottobre, mi sembra che... che a metà ottobre ha acceso la ciuffa l'anno scorso, adesso sta facendo caldo ancora, chi ne accende? Oh. Mi pare che questa cosa si mantiene fino ai primi di dicembre, si mantiene così già andare. Allora siamo tranquilli, va, allora siamo tranquilli, per cui va bene così. È caldo le prese, non male, stiamo con il caldo sopra il letto, con il suolo, sole, basta, e la finestra è aperta, la parete è abbastanza, però la finestra è aperta, per cui non puoi chiudere, c'è cioè troppo caldo. No, anche io sto dormendo leggero, fatti mangiare, me ne invece un po' caretto sudato, me ne invece, hai un secchietto? Quest'anno è il caldo. Perché si è preso. Ah, io me ne ho preso. Ah, io venivo alle 7, alle 7 e 5, mi ho tutte le mattine. E facciamo colazione. E dopo mi sono a buttare dentro il letto. Fino alle 9, era va bene, se non devo andare adesso forse. È stato a qualche vista mi ha sorpreso. Ma quando non devo fare niente, cosa fa in terra? Le 9, se non se lo prendo. E ce l'ha scappato. Ma tu hai un problema per stare l'animale, ecco perché magari ti era successo la mattina. No, ma poi mi sveglio presto e no. Non riesco a stare nel letto fino a quell'ora di giù, e che perdisci, non mi sono abituato più a... ormai sono abituato a alzarmi presto, anch'io, ma cosa fai in terra? Rispetto alle 7:30, alle 7:05 di alto, allora faccio colazione, io e lì. Dopo faccio il caffè e dopo ci buttiamo di nuovo sul letto così e per cui c'era le 8 e mezzo, le 9 e certe volte anche le 9 e mezzo rimaniamo così chiacchierando a mangiare la mattina. Sì, no, infatti io già ce l'ho che fare. Diciamo, devo fare gli occhi, da bui, piano piano. Qualche volta mi tocca portare, che non mi deve già, ma portare i miei nipoti, quindi adesso go in apparato. È chiaro, sei già, stai difficile. Lui cosa fai, chiaro? Per esempio a campagna ci sto chiedendo ogni volta di pappa adesso, e poi quando scendo, io scendo la sera, la mattina scendo mai, perché la mattina è tutto bagnato dalla buffa e senza con il sole, eccetera, mentre la sera asciuga un po' e allora si può scendere. Forse scende oggi, dopo magari dopo la settimana che non si scende, capito? Perché? E cosa fai? Salvo che non devi andare a fare la spesa, chiaro che allora è diverso la situazione. Però prima delle 8 me le alzo, capito? Quando è così. Fai bene, tanto non vi fai nulla in terra, quindi già fai bene. Ecco cosa è. Eia, per carità. È vero, ha scritto San Vecino? No, a nessuno. A nessuno che nessuno. Nessuna voce strana. Buonasera. Bello me, è peggiorai. Buonasera anche a lei. Avanti. Non mi senti allora? Io a te credo che ti intendo. Che a te, se non ti intendo io, che non ti intendo. Qualcuno. Ah, ah. Ok, Giovanni. Giovanni sono, Beh, Giovanni, certo. Ma dici non ti intendi a più a... apparato. Qui c'è una compagnia di Gio Maria, amico. Avanti, Gio Maria. Salutiamo a Giovanni, con la buonasera. Certamente, oggi è libero ed è entrato. Così è Giovanni. Ma chi sarebbe questo Giovanni io? Non ho capito. Chi sarebbe questo Giovanni io? Hai sentito? Hai sentito? Da una volta mi barriendo. Dai così. È diversa, la voce è diversa da Giovanni, da questo qua, Ma che è Giovanni? È bocca quello che conosci il dottore. Capito? E allora lui? Giovanni. Ma stava la voce qua, c'è brutto di Giovanni, lui. Certo. Aiuto, vabbè, ma giambato il microfono, è giambato. Ma so che cosa Giovanni, no, ma da chi ho cambiato? Che cosa Giovanni? Io lo conosco io chi è. Perché è diversa la voce? Cioè, quasi precisa, come ti sto dicendo. Sto usando una radio digitale. Evidentemente lui già sta cambiato apparato, la ricezione è diversa, e per cui l'ha preso per Giovanni. E poi chi è questo Giovanni? Non può essere Giovanni la Fetta, perché quello non sta entrando più. Poi Giovanni, chi sei Giovanni? Vabbè, dai, catta, non mi sparare per quello, no. Catta, non ci vuoi sbagliare. Vabbè, con questo apparato la voce è diversa da come ti sentivo dall'altro. È inconfondibile la voce di Luca, È inconfondibile. E per cui... Catta... Giovanni, infatti mi sembra va strano, così è lui. Va bene, mi sentite, sì, va bene, o fa schifo? Non ha cambiato, è sempre la stessa, insomma, e forse l'apparato tuo, perché dalla ricezione da un apparato all'altro cambia, insomma, forse per quello. Sì, sarà così, ha ciambato, andiamo che andiamo, dai. Vi fate un controllo, là. Questo è il primo passaggio, guardate un po', questo è il primo passaggio, aspetta, e questo è il secondo passaggio, c'è differenza di segnale. Il segnale è aumentato, anche la radio è appena più forte. Ma è malato la radio, è comprensibile. E prima era più meno, ha messo tutto, ma era più incisiva, più forte, più piena, va. Ok, da. Intanto mi trompo, me ne vado a letto, non è che mi devo alzare alle 4, meno 10, tra le 5 meno 10 ho sempre in ufficio. Vabbè, lavorando sai, sì. Io Maria, un mese già, non fare ufficio. Vabbè. Io dico di c'è se fa bene lui. Sì, tanto che non ho venuto a Sassa, e dopo andiamo a Vinè. Però uscito questo qua, sta andando qua. Faccio dalle 5, meno 10 alle 9 ho finito. Non è che ti stai morto, per cui che tranquillo, vai. Così è ciò. Grazie, Grillo. Meglio che c'è che nulla. Meglio quello che nulla. Oh, allora c'è anche ancora Graziano. Graziano è ancora all'ospedale, cosa? A chi la chiedere? Se lo sto trattenendo vuol dire che era grave. E che era più inteso, Gio Mari? Era più vicino. Sono guanni, non lo vedo, lo intendo. Non rispondere. Anzi, andavo a rispondere, però non si capisce più niente. Troppi lavori, capito? Parlando. Allora, si è fatto la moglie e non sta bene. non sapere se è lo stesso. Mi muove all'ennende, boh. Ce lo senti, salutamelo. Se ne intendi. Ogni tanto li telefonavo, ma adesso dove rispondere che ormai prima mi rispondeva riuscendo a parlare bene, adesso non riesce nemmeno a parlare, vuol dire che non sa bene, grazie senz'altro te lo saluterò. Avanti, signor Luca. Noia, casino. Un casino, vabbè, è che ci vuoi fare, purtroppo così, questa è la vita. Ma c'è allora, quando nemmeno te l'aspetti, tanti, è a cattivi, non è tanto facile, purtroppo così, è messo male anche lui, è messo male, poverino, e dispiace, però purtroppo siamo di passaggio, per cui bisogna capire queste cose, però prima o poi succedono. E infatti, queste cose succedono, e purtroppo, e ogni anno i nonni di Begosu, pensa un po' di... Per carità, la vita com'è, cazzo, cazzo, quando è giovane ancora, cazzo, ma la persona anziana è diversa, magari arrivato a certa età è chiaro che i malati mettono fuori e per cui, ma quando è giovane uno, cazzo, è troppo così, cazzo, non si deve fare niente, non si può fare niente, arriva l'ora e ti si butta in giro. Quando sarà tutt'altro che mai ti ravvedemmo, purtroppo non si può fare nulla, non si può fare niente, no, ce l'ha fatto perché alla meraviglia sì che la barca va a lasciare andare a tutti i fermi, pazienza. Vai tu. Proprio siamo tutti di passaggio. Non mi rimane nessuno a preda di Busà. È proprio così, Com'è questa radio tu? Va bene, ti ha fatto benissimo Giovanni. Bene, bene, anche a Tore. Bella, va bene, che era chiara, perfetta. Bene così, aspetto bene che sta arrivato. A Busà. Certo, radio 5, perfetta. Allora, sto con traffico, là. Perché c'era il coso, l'accordatore che mi sta funzionando male, ma non si muove. Forse bisogna andare una distanza lì, per lo sbaglio, ai contatti, perché non sta camminando. No, non sta funzionando per niente. Certo, per muovere andare. No, non mi segna bene, capisci? Mi segna anche di meno, perché andare proprio a Potenzano quando metti le stazionari, invece non va a Potenzano, per cui invece metti qualcosa non va. Invece ne ho provato un altro a correttore e già sta va bene. E questo è nuovo questo. Questo c'ha due anni di vista, evidentemente qualcosa c'ha, io magari a tutto lo spazio di contatto, forse per quello, la povera magari. Sicuramente sì, sicuramente sì, è così. Mi sono assicurato con l'altro rosso, funziona perfettamente, questo è il contatto. Domani se sto tempo lo apro e io vado bene a stare in contatto, vediamo un po' che si rimette a posto. Così è to. Non c'è che la puoi giambare, non si può giambare per nulla, non si può giambare purtroppo, è così. Sì, andiamo bene, andiamo. Ascolta, per forse vada bene. Forse vada bene. E si hanno male a questo con questa figlia, Così va bene, sì, no. Bisogna ciamballa, bisogna affogare. Stiamo bene, andiamo. Vai tu. Andiamo bene, andiamo. Via. Ciao a te. Così, e oggi tu sei fatta con un po' questa qua, così la faccio andare. E l'altra l'ho messa in parcheggio, il 2009. Oh, dove è 30 sei arrivato? E anche tu, Giovanni, sei a fondo scala. Infatti. Dove è 30? Va bene, la solita radio bella, pulita, tranquilla. Faccio una prova, Giovanni. Allora, da questo microfono, c'è andata con un altro. Ah, attacca, io ascolto il microfono originale tuo, è piccolino, sembra un uomo, guarda. No, già sta andando bene. Guarda, questo qua è l'altro, sempre uguali, sono uguali di microfonia, è meglio l'altro. No, questo rimane più intima, la radio rimane più forte. È meglio questo il microfono allora? No, anche l'altro è buonissimo, ma questo mi sembra più forte come radio, così è ciò. Questa rimane più forte, quella là rimane più chiara, rimane. Questa rimane appena più cupa, però forte. Guarda il microfono normale invece, 1, 2, 3, prova. Già, si sente normale. No, 29, dai. Ma dico, va bene come microfonia, o brutto, Va bene, e a voglia. Sì, però non è forse come trafficato, ma questo va benissimo ugualmente. Mi pare bella chiara, sì. Ho capito, no? Va bene, avanti tu. No, già è così, infatti è così, no. L'originale è sempre più bassa di quegli altri. La applicazione normale, chiaro che è diversa la radio. Salvo che lo sia precompresso. Perché se... prima faccio fuori i microfoni precompresso, adesso non li stanno facendo più precompresso. Come il toccante, esempio. Io dico che il toccare era sempre precompresso, ti ricordi ciò? Avevi dato il microfono, era più compressa la voce, più forte. Sembrava precompresso, mi volevo più applicarsi, invece era precompresso, però bella chiara, quello del toccare. Vabbè, stavo facendo finito di soffrire. Infatti, Gucci, purtroppo è così. Va bene, non sono altro, dai, io chiudo che sta venendo gente, per cui la prossima cosa. Buon proseguimento, ci sentiamo alle prossime, se Dio vuole. Ciao, Lu, buon proseguimento, riprendo io chiudo. Ciao a tutti e due. Sì, allora, ciao, Giomari. Anch'io se ne approfitto, dai. Me ne vado a nanna, sono domani, mi vedo un cucco, spengo tutto, ciao to, a domani se Dio vuole, dai, buonanotte Gio Maria, e ciao a chi è in ascolto, ciao. Ok, ciao Luca, ciao Gio Maria, a risentirci alle prossime, ok, ciao.